America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Welcome back, gentlemen. We're going to move on now to discuss some social issues. Megyn Kelly, beh, perché parto da lei. Dibattito repubblicano ieri, l'ultimo dibattito prima delle elezioni dell'Iowa, del caucus dell'Iowa, che sarà lunedì. Però la Megyn Kelly, che è stata la bestia nera di Donald Trump, non aveva la sua controparte, perché come sapete Trump non ha partecipato ieri al dibattito. Dibattito vivace, ma dibattito povero, perché alla fine, senza Trump c'era un vuoto enorme. E dunque, ne parleremo poi in un'altra occasione, anche perché dovremo vedere che impatto questo dibattito ha avuto sui sondaggi, cioè la mancanza di Trump lo ha aiutato o lo ha danneggiato. Ma oggi vorrei invece continuare sul capitolo democratico e parlarvi del candidato di punta, ancora almeno per ora, del Partito Democratico, cioè Hillary Clinton. I have spent my entire adult life. Allora, facciamo un salto all'indietro. Hillary Clinton nasce nel 1947 a Chicago, si sposa con Bill Clinton l'11 ottobre del 1975 e lei ha detto che è sempre stata una grandissima storia d'amore. Poi questa storia, sappiamo, è stata turbolenta, lo vedremo fra poco, e è stata la First Lady, naturalmente, del presidente americano. Ha vinto la campagna per diventare senatore di New York dal 2001 al 2009, è stato segretario di Stato dal 2009 al 2013 e adesso annuncia la sua candidatura. Sarebbe, se vince, nomination e poi presidenza, il primo presidente donna nella storia degli Stati Uniti. Non solo il primo presidente donna, ma i primi due presidenti che marito e moglie sono stati presidenti degli Stati Uniti. Quindi si farebbe storia 3-4 volte, non so, poi le conteremo. Cerchiamo di partire dagli inizi. She was very much the absent star at the Senate Whitewater Committee hearings. Ecco, quando ci fu la campagna di Bill Clinton del 92, ci furono molti scandali già da allora, che erano degli scandali ancora non sessuali, ma erano di natura finanziaria. C'era l'idea che i Clinton, soprattutto Bill, potessero approfittare della loro posizione. Bill Clinton era, ve lo ricordo, governatore dell'Arkansas, e un tale David Hale disse che per ottenere dei permessi per fare uno sviluppo su questo Whitewater River, che era un fiume appunto dell'Arkansas, Bill Clinton aveva chiesto di dare un prestito di $300,000 a tale Susan McDougall. Dopodiché però si tradusse con un nulla di fatto. Resta l'ombra, però, l'ombra del fatto che i Clinton approfittano della loro situazione. Per esempio, vi faccio un altro esempio: appena entrati nella Casa Bianca nel 92, decisero di licenziare tutti coloro, Bill Dale, me lo ricordo, che era il capo dell'ufficio viaggi della Casa Bianca, che ci organizzavano i viaggi dei presidenti americani, decise di licenziarli tutti e di sostituirli con un'agenzia di viaggio di amici loro. Ecco, c'era un po' di interesse privato in atto pubblico che ha sempre un po' coperto la loro attività politica. Oggi gli attacchi su Bill Clinton ci sono per la sua fondazione, la Bill Clinton Foundation, che riceve donazioni magari da governi stranieri. Allora si dice: ma come, se ricevono dei soldi da governi stranieri, come fa Hillary ad essere così pura? At first he said that he needed to be able to trust me. Monica Lewinsky, l'avrete riconosciuta? No, forse non l'avete riconosciuta, però insomma ve lo dico, è proprio lei. In questa sua ricostruzione dice: all'inizio il presidente mi diceva cerca di avere fiducia in me, poi ho capito che era lui che era un po' preoccupato. Insomma, è stato uno dei più grandi scandali nella storia della presidenza americana. E quando esplose lo scandalo Lewinsky, tutti erano molto elettrizzati, non si capiva vero o falso. Il primo a intervenire fu Bill Clinton. Sentiamo. I did not have sexual relations with that woman. Eccolo, chiarissimo Bill Clinton. I did not, e lo dice con voce dura, me lo ricordo come fosse oggi, era una diretta televisiva, dice: io non ho mai avuto una relazione sessuale con quella donna. Dopodiché, quando le prove furono inconfutabili, fu costretto a dire che cosa. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. Dice: sì, in effetti ho avuto una relazione con la signora Lewinsky e non era una relazione appropriata. E poi disse: anzi, devo dire, era una relazione sbagliata. Ecco, la cosa interessante è capire come in questa situazione così difficile Hillary Clinton, la femminista, con questo suo marito presidente, con cui ha avuto una una storia che risale addirittura al 1975, ha reagito. Are you embarrassed? Well, you know, I would be embarrassed. Well, sure. Hillary Clinton, intervistata in diretta televisiva, l'intervistatrice dice: ma eri imbarazzata? E allora Hillary dice: ma sì, dice, insomma, forse sì, però dovevo pensare su quella che doveva essere poi la cosa giusta da fare. Sono cose molto private, molto personali, ne abbiamo parlato a lungo e alla fine la cosa giusta era di stand on the side of my husband, cioè di stare a fianco di mio marito. Ecco, questa cosa le ha attirato critiche delle femministe, naturalmente, a non finire. E poi, Hillary, ricordando la sua relazione speciale con questo marito, sono una power couple, ovviamente, sono ormai una coppia di potere, e dice: nessuno mi capisce meglio, nessuno mi fa ridere come lo fa Bill. Anche dopo tutti questi anni, lui è ancora la persona più interessante, energica, piena di vita che io abbia mai conosciuto. Io e lui abbiamo iniziato un discorso nella primavera del 1971 e dopo tutti questi decenni non lo abbiamo ancora terminato. In effetti non lo hanno terminato perché per Hillary Clinton Bill resta comunque un asset nella sua corsa politica, cioè il presidente resta oggi uno dei più abili politici americani, molto lucido, molto influente, e in effetti se fosse alla Casa Bianca sarebbe di grandissimo aiuto alla signora Clinton e la aiuterà molto certamente nel corso della campagna elettorale. Però i problemi non si fermano qua ed ecco dove Donald Trump, l'assente al dibattito di ieri sera, l'ha attaccata. And Uma. How about Uma? Ecco, Trump, come sempre aggressivo, senza peli sulla lingua, attacca Hillary Clinton perché la persona più vicina a Hillary, dal punto di vista politico, quella che l'aiuta è sempre con lei, si chiama Uma Abedin. E il problema è che Uma Abedin si è sposata con un signore che si chiama Anthony Weiner. E su quello che Trump attacca. Perché? Perché non so perché questi politici americani poi così hanno questa debolezza costante dal punto di vista sessuale. Ma questo Anthony Weiner faceva, diciamo, delle foto un po' così osè delle sue parti private e dopodiché le spediva in giro a delle ragazzine. La cosa è venuta fuori dopo il matrimonio e ha dovuto dare le dimissioni dal congresso dove era e dopodiché è stato addirittura recidivo. Eppure anche loro due restano sposati. Insomma, ci sono molte contraddizioni e avremo sicuramente una gran quantità di attacchi di questo genere nei confronti di Hillary Clinton. Alla fine però dobbiamo pensare a una donna straordinariamente solida che ha avuto un'esperienza che oggi è difficilmente battibile da qualunque altro candidato, perché è stato senatore a New York, segretario di Stato, First Lady, è conosciuta da tutti, è in grado di tenere insieme il paese, forse non è simpaticissima, ma certamente è quella che lunedì dovrebbe fare meglio di tutti, a meno che la sorpresa di queste ultime settimane, l'altro candidato democratico Bernie Sanders, non vada a infrangere questo sogno che tutti gli americani, nel bene e nel male, con luce e ombre, comunque stanno vivendo fino in fondo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vi fa più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera, potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, chiocciola Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno, la storia d'amore di Bill e di Hillary. Vorrei andare indietro al 1971, questi due ragazzi, studenti pieni di sogni, che si innamorano con una canzone, che adesso vi farò sentire, nella versione di Judy Collins. La canzone l'aveva scritta Joni Mitchell e la canzone si chiama Chelsea Moore Mornings ed era dedicata a questo albergo in cui si svegliava Judy Collins e vedeva queste mattine Chelsea, un quartiere di New York, e come avrete capito è da lì che hanno deciso di chiamare la loro figlia Chelsea. I woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I heard was a song outside my window. Traffic wrote the words. It came ringing up like Christmas bells and wrapping up like pipes and drums. Oh, won't you stay? We'll put on the day and we'll wear it till the night comes. It was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow on my wall. Blue, red, green and gold to welcome you, crimson crystal beads to bathe on. Oh, New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì, giorno delle prime elezioni americane. Goodbye and get going!